English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Eccola qua Giulia, collegata con noi al telefono. È sempre in giro per il mondo la nostra Giulia, ma non manca l'appuntamento serale con il nostro English 24. English 24 che questa sera ci parla di tecnologie, in particolare le tecnologie che ci servono a tenerci in contatto con gli amici. Il social networking va particolarmente di moda, quasi tutti usano Facebook, ma noi ci riferiamo a un altro fenomeno emergente. Un tempo c'erano i blog, ora c'è il nano blogging, non più quindi lunghi post, lunghi articoli per raccontare la nostra vita e i nostri pensieri, ma messaggi brevissimi, poco più di un SMS. La piattaforma più famosa al momento è Twitter, ce ne parla un articolo del New York Times. Ne ascoltiamo un assaggio dal nostro CD di English 24. The rapper 50 Cent is among the legion of stars who have recently embraced Twitter to reach fans who crave near continuous access to their lives and thoughts. On March 1st, he shared this insight with the more than 200,000 people who follow him. "My ambition leads me through a tunnel that never ends." In its short history, Twitter, a microblogging tool that uses 140 characters in bursts of text, has become an important marketing tool for celebrities, politicians, and businesses, promising a level of intimacy never before approached online, as well as giving the public the ability to speak directly to people and institutions once comfortably on a pedestal. Giulia, allora, abbiamo sentito parlare di questo Twitter, in particolare in relazione a un personaggio molto famoso che viene citato dal New York Times. Chi è e cosa combina? Sì, è il rapper 50 Cent, questo rapper che si è scelto questo nome molto curioso, cioè si fa chiamare 50 centesimi, anche se in realtà ormai è multimiliardario. Lo ha scoperto un altro rapper famoso che è Eminem, lo ha sostenuto e ora è diventato molto famoso e quindi è diventato una star e quindi fa parte di quella Legion of Stars, quella legione di stars che have embraced Twitter. To embrace naturalmente vuol dire abbracciare, anche in senso figurato, perché Twitter è difficile da abbracciare come entità fisica, però lo hanno scelto come appunto modo di social networking, di comunicare con la società, sostanzialmente con i fan poi in questo caso. Eh sì, perché i fan sono ansiosi di avere notizie sempre più fresche e sempre più personali da parte dei loro beniamini. Sì, c'è questo verbo che è crave, to crave, che vuol dire anche avere per esempio una voglia matta di qualche cosa quando si parla di cibo, però quindi hanno questa voglia matta i fans to crave per le informazioni sulle lives and thoughts, sulle vite e persino sui pensieri, anche quelli proprio di vita quotidiana delle loro amate stars, e in questo Twitter li aiuta moltissimo. In che senso Twitter è un tool? È un tool, cioè uno strumento, in questo senso come dicevi tu, di nano blogging o micro blogging, quindi è uno strumento perché Twitter sostanzialmente permette di mandare questi messaggini di 140 caratteri, quindi molto simile appunto ai messaggini di nostri, gli SMS, e però questi messaggini finiscono su tutti quelli che sono iscritti a una comunità come su Facebook, e perciò se 50 Cent vuole spiegarci che in quel momento si sta bevendo una Coca-Cola o più probabilmente una birra, manda un messaggino e tutti i suoi fan lo sanno e sono molto eccitati perché hanno questa information sulla sua life in quel momento. E non a caso hai citato due prodotti perché è diventato un marketing tool. Un marketing tool, certo, perché Twitter è ormai, tutti stanno guardando a Twitter come strumento per farsi conoscere, per far conoscere i propri prodotti, addirittura i giornali stanno pensando di usare Twitter per far conoscere per esempio il titolo di un articolo che verrà pubblicato il giorno dopo, e quindi è chiaro che questa ability to speak directly, quindi direttamente a chi pensi faccia parte della comunità, sia un tuo fan, sia un tuo utilizzatore finale, è un modo per colpirlo direttamente, quindi molto meglio dal punto di vista del marketing che una pubblicità per esempio per strada. E per quanto riguarda invece i fans, possono arrivare a un livello maggiore di intimità con il loro idolo. Esatto, quindi questo Twitter è promising a level of intimacy, quindi un livello di appunto di intimità. Adesso ognuno naturalmente può essere soddisfatto da quello che vuole, però c'è chi si sente molto intimo perché sa che appunto 50 Cent in quel momento sta bevendo una Coca-Cola. Ma come funziona questo Twitter? La compagnia americana Commoncraft, che confeziona video educational per le aziende, ha lanciato su YouTube un video con un'animazione molto divertente e una spiegazione molto efficace. Eccone un brevissimo estratto. What are you doing? It's one of the first questions we often ask friends and family. Even if the answer is just mowing the lawn or cooking dinner, it's interesting to us. It makes us feel connected and a part of each other's lives. Unfortunately, most of our day-to-day lives are hidden from people that care. Of course, we have email and blogs and phones to keep us connected, but you wouldn't send an email to a friend to tell them you're having coffee. Your friend doesn't need to know that. But what about people that want to know about the little things that happen in your life? Real life happens between blog posts and emails. And now, there's a way to share. Thanks to Twitter, it's possible to share short, bite-sized updates about your life and follow the updates of people that matter to you via the web. Ecco Giulia, partiamo subito con una domanda che un po' così definisce il nucleo di questo nanoblogging. Cosa stai facendo? Insomma, bisogna dire in ogni istante, what are you doing? What are you doing? Quindi è la domanda che poi tra l'altro è un po' un intercalare anche, no? How are you? What are you doing? Quando ci si incontra. Però in realtà questa è una domanda a cui si può avere una risposta concreta. Quindi il video educational, come dicevi tu, dice questo what are you doing? It's one of the first we often ask friends and family, quindi è la prima cosa che ci chiediamo e la risposta può essere mowing the lawn, cioè sto tagliando il prato, oppure sto cooking dinner, sto facendo da mangiare, è quello che è la risposta esatta, concreta a quella domanda. E questo ci fa sentire in un certo senso ancora più legati l'uno con l'altro. Sì, sono le tipiche appunto domande e risposte che vanno benissimo per Twitter, domanda breve, risposta breve, però con grande effetto, cioè it makes us feel connected, ci fa sentire connessi, perché è chiaro che dirti esattamente cosa sto facendo e non magari quali sono i miei pensieri filosofici su una cosa, ti fa anche visualizzare il tuo amico, il tuo fan o il tuo idolo, come nel caso di 50 Cent. Tra l'altro sono dettagli della vita quotidiana, probabilmente ci incuriosivano, non ne sentivamo davvero la mancanza, però questo ci svela Twitter. Sì, dice ironicamente un po' il video, forse your friend doesn't need to know that, non è che proprio io abbia bisogno di sapere che tu in quel momento stai cucinando, però se sei veramente mio amico e io sono veramente amica tua, forse meglio che niente, non siamo insieme, però almeno so che cosa stai facendo e quindi questi day to day life, questi dettagli della vita di tutti i giorni sono qualcosa che appunto ci dà soddisfazione sapere. C'è una considerazione sulla real life, cioè la vita vera? Sì, perché forse tutti noi, no? Certo, usiamo i blog, anch'io e te Marta, siamo un po' delle fanatiche, la email, e magari chi ha il BlackBerry, però tra tutte queste cose, cioè real life happens between blog posts and email, cioè ci sono anche delle cose molto reali come appunto cucinare che facciamo e queste sono le cose che possiamo comunicare. Leggevo che Oprah Winfrey l'altro giorno stava spulciando il suo cane, ha trovato delle zecche, ha mandato un tweet, quindi ha usato Twitter per chiedere come fate voi quando trovate le zecche sul vostro cane, entusiasmo dei fan di Oprah perché hanno avuto l'opportunità di darle una risposta su una questione molto pratica. È un modo quindi per condividere. Yeah, a way to share, esatto, quindi share o semplicemente l'idea di farti immaginare quello che il tuo amico sta facendo, oppure addirittura share una solution a un problema, come nel caso di Oprah e il suo cane pieno di zecche. Ma torniamo al video di Commoncraft che potete trovare su YouTube e continua a spiegarci di cosa si tratta, cos'è Twitter. Carla, she's addicted to her mobile phone, reads blogs every day and has contacts all over the world. She signed up for free and saw that Twitter pages look a little like blogs, with very short posts. Each page is personal and has updates from friends. She got started by looking up her friends on Twitter.com. After finding a few, she clicked follow to start seeing their updates on her Twitter page. Within hours, she began to see a different side of people she chose to follow. The little messages from Twitter painted a picture of her friends, family, and coworkers that she'd never seen before. It was the real world. Soon, she became a fan of Twitter and posted updates every day. Her friends followed her updates and learned that she recently discovered a passion for Van Halen. For Carla, Twitter worked because it was simple. The updates were always short, under 140 characters. Giulia, appare subito un nuovo personaggio che è Carla. Che cosa combina Carla in questo video? lei, she's addicted to her mobile phone. Quindi to be addicted to vuol dire dipendente, è usato sia per la droga che appunto per il telefono. Io per esempio sono addicted to heels, ho sviluppato una dipendenza dai tacchi, e lei invece appunto dal mobile phone. She reads blogs every day, e poi è anche addicted to blogs. Però non sapeva che cosa fosse Twitter e quindi she signed up for free, cioè si è iscritta, naturalmente iscriversi a Twitter come a Facebook, grazie a Dio, è gratuito. E ha visto che assomigliava un po' ai blog, ma cosa ha cominciato subito a fare? Come quando si va su Facebook, no? Si vuole scoprire chi sono i tuoi amici che ci sono, e quindi she got started by looking at her friends on twitter.com. quindi la prima cosa che si fa è appunto vediamo un po' con chi potrei nano bloggare, micro bloggare, ci sono delle persone amiche che mi interessa raggiungere? La risposta ovviamente è sì. E tra l'altro pare che questa signorina Carla abbia scoperto delle cose nuove dei suoi amici di tutti i giorni. Sì, guarda, devo dire, provare per credere, nel senso che detto così, appunto, ma cosa me ne importa di sapere che cosa sta facendo una persona, amica o non amica, ogni secondo della sua vita. Invece, come dice appunto il video, è questo strumento painted a picture she'd never seen before, cioè scoprire queste piccole cose, le piccole cose della vita diventano poi le piccole grandi cose della vita, quindi un quadro che non aveva visto, che non aveva immaginato, di friends, family and co-workers, cioè di tutti quelli che lavorano con lei, perché poi in America ormai tutti su Twitter, quindi altro che cercare di vedere se c'è qualcuno, la risposta è sempre sì, si trovano migliaia di persone che si conoscono su Twitter. C'è un verbo che è interessante da imparare, posted up. Sì, to post it up, post, con questo up lo rafforziamo ancora di più, no? Il post, l'abbiamo detto anche prima, è oltre al post it, cioè la pecetta gialla, è naturalmente to post in un blog o anche magari su Facebook, cioè mandare un messaggio. To post up vuol dire proprio inserire, cioè rafforzare quest'idea che ho scritto il mio messaggio, i miei 140 caratteri se sono su Twitter, e post it up. Insomma, ci ha convinto questo video, noi continueremo a usare Twitter con entusiasmo. Giulia, io ti ringrazio anche per questa puntata, speriamo di trovarti in studio per la prossima settimana. Presto Giulia. Buon fine settimana a tutti. L'appuntamento con English 24 è come sempre il sabato sera, ci troviamo sabato prossimo attorno alle 19:15. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata.